12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. La puntata di oggi è dedicata al lavoro nel settore alberghiero. Cercheremo di capire quali sono le figure professionali ricercate in questo settore e quali sono i criteri di selezione insieme alla nostra ospite Lorenza Lain, direttore generale dell'Hotel Cassagredo di Venezia. Per iniziare a capire questo settore lavorativo abbiamo cercato di fare un po' un elenco delle professioni che possono essere impiegate in una struttura alberghiera. Dalle professioni più tecniche a quelle più dirigenziali abbiamo trovato l'addetto al ricevimento, che è la figura che accoglie gli ospiti e li assiste durante il periodo di soggiorno, l'addetto alla sala, che si occupa di preparare la sala ristorante e che si occupa di servire i pasti, il cameriere ai piani, che si occupa della pulizia delle camere dell'albergo, l'addetto alle colazioni, che si occupa di preparare e servire appunto le colazioni agli ospiti, il Rooms Division Manager, che è la figura gestionale che in struttura ad elevata ricettività e qualità cura tutti i servizi dove stazioneranno gli ospiti, ad eccezione della sala ristorante, coordina anche supervisione e ricevimento, i piani e gli impianti. Il Food and Beverage Manager, che in struttura sempre ad elevata ricettività e qualità cura tutti i servizi ristorativi relativi agli ospiti, come ad esempio la logistica, il magazzino o l'igiene dei locali di produzione dei pasti. Il direttore d'albergo, che è la massima figura direttiva e responsabile di una struttura, si occupa delle pratiche più complicate, della risoluzione dei problemi più seri che un albergo o una struttura ricettiva può affrontare, e il coordinatore centro ristorazione, che si occupa della supervisione e dell'operatività della sala ristorante, quindi controlla che sia tutto in ordine e pulito, coordina i camerieri ed assiste gli ospiti. A seconda della tipologia della struttura alberghiera sicuramente si possono individuare altre specifiche figure professionali, e per chi volesse avere un elenco completo può collegarsi al sito dell'Istat www.istat.it e nella sezione professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi può trovare appunto un elenco dettagliato di tutte le mansioni del settore alberghiero. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. E ora diamo il benvenuto alla nostra ospite Lorenza Lain, direttore generale dell'Hotel Cassagredo di Venezia. Dottoressa, per prima cosa vorremmo capire quali sono le figure professionali maggiormente richieste in una struttura alberghiera. Innanzitutto buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito. Rispondo subito alla sua domanda. Per quanto riguarda le figure professionali maggiormente richieste nell'ambito alberghiero, diciamo che paradossalmente le rispondo un po' tutte, nel senso che dal ricevimento al cameriere ai piani, ai facchini, al personale in sala e al personale di cucina, l'albergo ha bisogno sempre di più di figure professionali e anche altamente qualificate. Ecco, a proposito di qualificazione, al momento della selezione, quali sono gli aspetti che contano maggiormente? Magari ci può fare un esempio, sì, appunto, su che cosa viene valutato, su cosa viene valutata una persona al momento in cui si presenta, ecco, si candida per una posizione. Per quanto mi riguarda, le rifaccio un esempio, diciamo che forse attinente al tema di oggi, che riguarda il personale di ricevimento, quindi il personale della reception, quindi addetto direttamente al servizio ai clienti. Non è così importante al momento dell'assunzione una formazione, un'esperienza in un albergo di pari categoria. Per quanto mi riguarda, io preferisco anche persone giovani, quindi neolaureate oppure diplomate, che però abbiano due o tre caratteristiche che per me sono fondamentali. La prima caratteristica è quella di essere persone che si presentano in un certo modo, soprattutto in un ambiente di lusso. Lei capisce che è importante avere anche un atteggiamento consono all'ambiente. Il secondo punto è quello dell'estrema educazione, perché e che molto spesso va di pari passo anche con un certo tipo di background culturale e anche familiare. E il terzo punto molto importante è ovviamente la conoscenza delle lingue, e su questo punto mi soffermo un attimo di più, perché molto spesso riceviamo abbiamo curriculum o domande di persone che sostengono di sapere molto bene le lingue, inglese, francese, tedesco, e poi di fatto all'atto pratico non le sanno bene, perché come noi sappiamo, soprattutto in Italia, la preparazione linguistica, diciamo, non è seguita oppure non è fornita così come in altri paesi da parte della scuola. Certo, quindi mi pare di capire che quell'aspetto della conoscenza linguistica sia una delle cose fondamentali, ecco, per poter lavorare in questo settore. Sì, beh, questo sicuramente, soprattutto se parliamo di alberghi di lusso, ma comunque in generale direi per quanto riguarda tutto l'ambito turistico. E a questo proposito faccio un inciso e dico a tutti i giovani che comunque un'esperienza all'estero, che sia nella fase di studio, quindi con progetti e programmi che oggi, diciamo, sono facilmente comunque a disposizione degli studenti, oppure un'esperienza lavorativa all'estero, anche se non attinente al settore turistico, ma penso anche a lavori che si possono fare nell'ambito, in altri ambiti all'estero, ma che richiedono una diretta partecipazione alla vita sociale, quindi anche proprio a quello che è l'uso pratico della lingua, poi sono utili se qualcuno vuole intraprendere la carriera nell'ambito alberghiero. E questo, ripeto, è valido sia per il personale a ricevimento, ma anche per il personale che poi lavora in cucina, oppure personale che lavora ai piani. Certo, dottoressa Lain, grazie. Prima di continuare a capire quali sono le modalità migliori poi per candidarsi in questo settore, ci interrompiamo per un breve intervallo musicale. Certo. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, stiamo parlando di lavoro nel settore alberghiero con la dottoressa Lorenza Lain, direttore generale dell'Hotel Cassagredo di Venezia. Nella prima parte della puntata abbiamo capito quali sono un po' le figure professionali maggiormente richieste e quali sono gli elementi che contano poi appunto in fase di selezione. Dottoressa, se un giovane volesse entrare in questo settore lavorativo e candidarsi per una delle varie figure professionali che trovano appunto impiego in una struttura alberghiera, quali sono, secondo lei, i canali e le modalità migliori per presentarsi? Io le direi un po' tutti, nel senso che vale sempre il principio che a fronte comunque di un buon curriculum, e qui comunque bisogna proprio che le persone si attivino per scrivere un bel curriculum, anche se hanno poca esperienza, però presentato bene, perché questo è il primo biglietto da visita, vale il principio, dicevo, per cui possono sempre comunque presentarsi direttamente, ovviamente non sempre vengono ricevuti dal direttore o da chi per il direttore fa la selezione del personale, però una presentazione anche di persona può essere sempre valida, e dopodiché tutti gli altri canali che sono dai siti internet, ce ne sono tantissimi che si occupano di mettere in contatto quello che è il mondo del lavoro con i ragazzi o i giovani in cerca di impiego, anche le agenzie interinali, perché comunque è sempre un primo approccio e può essere sempre comunque utile, perché gli alberghi a volte comunque attingono a questi database che sono a disposizione delle agenzie interinali, piuttosto che come è capitato anche nel nostro caso, capita spesso anche di avere selezionato delle persone che sono arrivate nella nostra struttura e poi sono rimaste a lavorare venendo da uno stage o da un periodo di studio post universitario o durante il periodo di studi. Dottoressa Lain, un'ultima domanda. Sì. In questo momento economico storico, il settore alberghiero come sta andando e che possibilità occupazionali offre effettivamente ad un giovane che volesse intraprendere questo percorso? E per quanto riguarda il settore alberghiero, ovviamente anche il settore alberghiero, come tutti gli altri settori in Italia, sta soffrendo un certo periodo di crisi. Magari per quanto riguarda l'albergo di lusso, io ti dico infatti un albergo 5 stelle, questo si sente meno, in quanto noi comunque abbiamo clientela che proviene un po' da tutto il mondo e non siamo focalizzati solo sulla clientela italiana o europea in generale. Il settore alberghiero, soprattutto a Venezia e comunque zone limitrofe, e penso anche alle altre città, offre comunque ancora delle buone opportunità di lavoro. Ovviamente sono opportunità di lavoro che possono essere soprattutto all'inizio stagionali, quindi ovviamente opportunità di lavoro che possono garantire un periodo di lavoro breve. Magari le stagioni si sono sicuramente accorciate rispetto a quelle che erano le stagioni le stagionalità di qualche anno fa. Comunque è ancora un settore, secondo me, che offre a giovani che hanno voglia di intraprendere questo tipo di carriera delle buone opportunità. È un lavoro, però, mi permette di aggiungere, che come si può dire, esula da quelli che sono i canoni molto spesso che le persone cercano in un lavoro standard. Mi spiego, sono lavori che implicano lavorare ovviamente il sabato e la domenica, orari serali, orari notturni, orari anche mattutini, questo in tutti i vari settori dell'albergo, e questo secondo me è un tipo di valutazione che i giovani dovrebbero fare quando decidono di intraprendere una carriera alberghiera. Dottoressa, io la ringrazio per essere stata qui con noi a 12 minuti e per tutti i preziosi consigli che ci ha dato. Grazie mille, a presto e buon lavoro. Grazie. Grazie. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Dal mondo della formazione nel settore alberghiero vi segnalo la data del 19 gennaio 2013. Scuola aperta al Centro di Formazione Professionale Lepido Rocco di Motta di Livenza, Caorle e Pramaggiore, e all'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Commerciali e Turistici Elena Cornaro di Jesolo. Si tratta di avere la possibilità di visitare le strutture formative e da acquisire utili informazioni per l'orientamento e la scelta scolastica dopo la terza media. Per informazioni potete consultare i rispettivi siti www.lepidorocco.com e www.cornaro.it. Infine vi segnalo AVA, Associazione Veneziana Albergatori, che ciclicamente organizza corsi di formazione gratuiti per il settore alberghiero, come ad esempio corsi per addetto al ricevimento, per camerieri ai piani e di sala, corsi di lingua e corsi per web marketing turistico. Per informazioni potete scrivere a sportello@lavoroava@schemaconsulting.it. E per oggi è tutto, prima di salutarvi vi auguro buone vacanze natalizie e vi do appuntamento dopo l'Epifania. Bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.